Los hay, non è vero, che non ti voglio più. Lo so, non capivo, non t'ho saputo amare. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti credo con te. Ogni istante sarà felicità, ma io non ti credi, non hai fiducia a me. Ascoltami, perdonami, ritorna ancora vicino a me. Con te ogni istante sarà felicità, ma io non ti credi, non t'ho saputo amare. Ascolta.